tu Zapparutti, Zapparutti, brutta cazza, Cazzarutti, Rubinetti, Cappatutti, Cipirunni, Ombilippi, Titti Catta, Cattitutti, Titti Runzi, Canzituzzi, Ebdo Pizzi, Tanzi, Cotutunzi, Penzi, Cuturanzi, Tinzi, Perituzzi, Tanzi, Turpenzi, Tinzi, Paratunzi, Tanzi, Papatunzi, Vaffantunzi, Tunzi, Tarapunzi, Peri, Paratunzi, Peri, Paratunzi, Peri, Paratunzi, Peri, Paratunzi, Peri, crocifiggersi da solo, come crocifiggersi da solo, prende chiodi e